Esercizio 3. Ascolta le frasi facendo attenzione alla pronuncia della N e della doppia N. 1. Mi piace il pane fresco. Ho la macchina in panne, non funziona. 2. È sano come un pesce. Tutti sanno come sono andate le cose. 3. Stasera ceno al ristorante. In attesa di un tuo cenno di risposta, ti saluto. 4. Smetto di studiare perché sono stanco. Vado a dormire, ho un gran sonno. 5. È una pena vederlo soffrire. Aspetta, devo prendere una penna. 6. Dona il sangue quando ce n'è bisogno. È una donna intelligente.